fare ciò che vuole, la mappone fare ciò che vuole. Quindi, libero arbitrio. Certamente non mi vuole provare la crema, a chi non so come mi do, sì. Io la crema voglio. Era bene, era bene. Ma ieri stavo dicendo, ieri notte stavo dicendo che cosa dovevi mettere a posto. Cosa dovevo mettere a posto? Dammi l'ubrati, non mi ammenta. Non ho rimosso. Ricordami quello che ho detto fa, perché io non mi ammento. Cosa ho detto? Del gara che stavi parlando. Ma del mio? Ah, il... fare il guadagno della modulazione, perché altrimenti non posso attaccare quell'elemento più 4, capito? Devo prendere, me lo devo regolare, devo smontare, devo togliere il tappo e regolare quel trimmer della modulazione, altrimenti non posso attaccare l'amplificato. Vabbè, ma stai parlando della camera eco. Va bene, dai, anche quello già va bene. Se non puoi attaccare gli amplificati devi abbassare quello da dentro. Ah, della scheda dell'eco cold. Devo il trimmer, li devo abbassare, devo regolarli fra. Li devo regolare i trimmer e quindi mi devo fare. Devo fare un preascolto e regolarlo. Sì, perché ieri l'ho provato, sono entrato sul 10 che c'era Gianni di Sassari e mi ha detto che non c'è l'effetto il volto c'è, ma c'è il non ha effetto elicottero, ha poco effetto elicottero, quindi devo vedere un po' con di regolare quella sopra, quella roba lì e anche il bip. Ehi capo, sì, ti ho sentito, sono ascoltando, solo che non sono entrato, non ci sono entrato, ma ti ho sentito che stavo parlando con Gianni, e Gianni se ne intende. No, è che lui ce l'ha avuto il 48, capito, quindi magari ha orecchio a prendere, a dirmi quando c'è l'effetto elicottero, giusto, capito. Era male la radio, no? No, ho sentito tutto, era bella comprensibile. Sì. Niente. Io non ho capito come fa Claudio non arrivare a Gianni. Io a casa ieri ce l'avevo 9-5, 9-10, mi facevo Edu, non intendo. Ma se arriva a me, io penso che arrivi a Edu Burro, no, un po' sì, dai. Non lo so, non te lo so spiegare comunque, una cosa del genere. Capita, arrivi a bomba a me. Però io arrivo a dirti a voi 9-20. Quindi torna tutto perché a me mi faceva 9-5, 9-10 modulati a picchi positivi. E io so che la piana no, in campagna, bra, tu sei tenato, quindi ci sta 9-10, 9-20, ci sta, capito? Però non è a dire che lui è più in basso di me, cioè lui non riceve 9-20, però 9-10, 9-20, però almeno 9-10, 9-15 deve riceverlo. Cioè dovrebbe sentire forte, proprio forte, io lo sento forte nel radio, anche se il segnale non è 9-20 come te, ma ci sta, fra, io sono 100 metri in basso di te, anche 150 metri di te, l'avevamo guardato l'altra volta, però è un sì, io lo dicevo bene, a volte non sentiva Gianni, a volte non sentiva neanche Danilo ieri notte, e Danilo a noi faceva S8, Ma no, Danilo qua arriva bene, a me arriva benissimo. Sai, quello che mi dà da pensare a me quell'antenna è sorda, perché lui ha il problema che non lo sente, capito? Che lo sente basso. A me è sorda questa antenna. No, per te è sorda. Cioè, chi se è poco come sicuro, chi se antenna è poco e bisogna, pezzo di filo, quindi avevamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Ha un pezzo di filo dentro, carissimo Franco, quindi non... Io, per quanto si possa, non la do la... Per esempio, è una cosa che non comprerei mai. Capito? Preferisco più autocostruirmela piuttosto che prendere una 50 così. No, per mettere quella è meglio mettere un depolo. È più tranquillo, perché io tipo a Claudio, a un mese di niente, col dipolo, con quel dipolo che ho, che è puntato burro, nonostante tutto a Roma, perché da Roma prendo abbastanza bene, con segnali forti, oltre 9,20 anche a volte, e tutto quanto, Liguria, tutta quanta, Ghisa, tutta l'Italia, ma a Claudio l'intengo sì, un po' basso di segnale, lo vedo, però il radio arriva. Certo, certo, beh, è una polarizzazione diversa anche fra. Tu pensa che io a lui lo sento con la cornuta, ne arriva S7 con la cornuta, ne arriva 9,5, 9,10 con la verticale e S7 con la cornuta. Hai visto un disaguio, cioè? Se io metto quella cornuta dove abiti tu, non ho bisogno di verticale. Cioè, detto proprio pappale, non so con chi viene manco a stressare a niente con questa cosa lunga. Cioè, metti quella cornuta e stai trasmettendo la grande. Non lo so. E tu ti vuoi pigliare la Game Master, tu una volta te la vuoi comprare la Game Master, fra, quando l'antenna ti sei infasciata, hai visto? Sì, vero. Avevo pensato proprio alla Game Master, meno male che sono riuscito a recuperarla. esatto. Meno male che sei riuscito veramente a recuperarla, perché altrimenti ti ricacciato un mare di guai, se l'avessi truncata in 4 mesi. Come che minimo? Come te minimo, non ti dico di più, l'avevo truncata in quattro mesi, e poi l'avevo abbozzo fuoco burro. No, è un disastro, quando è così è un disastro, quando è così, perché poi dici, caspita, ho le radio a posto, però quasi l'antenna nuova che non segui, in chi mi comincia già a chiamare fuoco, la vai a pensare a vero, No, io non sono, secondo me non sono antenne da antenne da comprare, secondo me poi la gente fa quello che vuole. Intanto vai da paghi il 130 euro ISO, conviene tanto comprare una di quelle Sigma da 60-70 euro o una Sirio, e almeno una verticale in alluminio, quella lì è una 5, sono 5 ottavi con i radiali. Con l'antenna è sorda perché non c'ha radiali, capito? Una 50 senza radiali non può esistere, è di buon va tutte le modifiche che vuoi, però tu una 50 senza radiali non può esistere. Una 50 si fa il calcolo, la fa la lunghezza, però sempre il radiale di ricezza non è davvero, che se no questa antenna è sorda. Io sono sicuro che se a quell'antenna che c'è la Game Master gli fai un piattello e gli metti il radiale a massa, quell'antenna non scheggia. Ma boh, non lo so. Un bello casino è. Per me è come dico io, non ve nulla da fare. Perché io, lui se lo sogna di ascoltare Alghero come lo ascolto io. Lui se lo sogna. No, non ascolta Alghero, no. E poi Giulio, se io non ricordo male, c'ha la mezz'onda, non la 50, ha la mezz'onda. Non è la 50 quella di Giulio, a quanto mi ricordo male è la mezz'onda, ed è totalmente un'altra cosa, perché l'antenna mezz'onda non ha bisogno di radiali, quindi riceve bene. La 50 Game Master ci vogliono i radiali, è matematicamente impossibile che una 50 funzioni bene senza radiali. Capo. E poi col prezzo che costa? A che costa? Un bel, a me s'antenna. Meglio mi bisogna che fai i duni, la Grazioli. Che se immagino, ma costa 300 euro, fra. Ma per dire, Aveva aumentato, ma prima costava intorno alle 200 e che cosa? Sì, 2,49 costava, adesso costa 2,86, 286 euro costa. Prima 2,49, ma non c'è storia, non vi sono paragoni, non vi sono storie. A confronto quella di Giulio mi sembra che sia una mezz'onda l'antenna, eppure se dovesse entrare glielo chiedo, però Giulio riceve troppo bene, trasmette bene, quindi non ha problemi, non ne ha di quei problemi, quindi è proprio la sua che è una 5 ottavi e quelle antenne senza radiali sono un disastro, sono esperimenti, perché la Game Master è nata mezz'onda, la Game Master vera è nata mezz'onda e ci sta, non 5 ottavi. 5 ottavi l'antenna ha sempre bisogno dei radiali, sempre, anche se no magari trasmette bene, è accordata bene, dove si vuole, però è soglia. Sì. Eppure io per fare queste prove non ne compro di antenne, non mi interessa, meglio non ne faccio prove. Però l'abbiamo voluta provare in Oga io, il rubaro mio, a vedere questa antenna, a vedere come ti si composta. Si comporta come si comporta lui, uguale identica, proprio non ha. Almeno che c'è anche un'ipotesi, che quando hanno installato quell'antenna non hanno guardato la distanza dal piano di massa, perché se quell'antenna lì non ha radiali sicuramente c'è un tot da tenere dal piano di massa, per esempio dal tetto, magari ti dicono è una 5 ottavi, però ha bisogno di un quarto d'onda o di 2 metri o di 3 metri, chi su chi è, per andare a fare il piano di massa, capito? Il piano riflettente. A meno che quell'antenna lì non ha bisogno di questa misura che va a fare col piano riflettente a massa. Perché la mezz'onda non ha problemi, la Game Master mezz'onda non ha quei problemi, assolutamente. C'è molta gente che la usa la Game Master mezz'onda, l'originale proprio con la prima serie, e vanno bene, non ve chiura, a me chi c'ha chiura di là, questa cosa della Game Master 5 ottavi senza radiali, ma mi ha sempre puzzato e non lo so. Secondo me devi tener conto di una certa misura dal piano di massa del tetto. Ecco, sì. Aspetta, mi arrivo un messaggio. Dalle 19 come sta faeva? Pensavo entro domani. Pensavo dalle 19 ti buttavano il frigorifero a casa gratis. No, aspetta, è marito a base. Ah, se mi conosciai. Se te l'ho detto che ti ho regalato più, stasera. Io ho tagliato tutta l'erba, ho fatto a prato verde, però è torna, gli si dia, è tornata a crescita, gli voglio passare invece spogliatori. Però gioco un po' di inciso a chi ha dato erba, ha fatto il nomaggio gana, nomaggio proprio gana, di avanti, a pigliare, a passare i spogliatori. Però mi devo sistemare un po' in garage, perché stamattina era presto, ha giubilato attrezzatura, ha giubilato delle cose, dei capi che mi servivano, ha giubilato, ma fa garita, ti ho lasciato tutto in terra, allora me lo devo sistemare però. Capo, basta sistemarlo, una volta buona posta da voi. Purtroppo siamo abituati, quando arriviamo magari siamo in presa, tutto quanto, poi appoggiamo, oggi appoggiamo, la domani buon innanto, poi arrivi e diventa sempre un casino. Fratta, è 4 e mezzo. Vabbè, però, sempre... Oh, Gabby, qualche giorno te sei libero però, a fare il Galaxy per il coso della potenza della manopola RF Power, e da farlo partire da 1 a 10, da. Se ci sei, fra, domani vengo. Se ci sei domani vengo, domani sera, domani pomeriggio, domani sera quando ti svegli. Domani tanto sono a casa. Capo, anche per fare come si chiama? Per agganciare l'alimentatore, almeno con quello posso abbassarlo per dire a 2 watt, a 3 watt. Ma domani ci sei? Sì, sono a casa domani, andiamo. E allora domani pomeriggio vengo, dai. Domani pomeriggio mi dici l'ora, quando ti svegli, quando finisci di fare le tue cose, mi dici Davide, mille sono a disposizione. E vengo, lo facciamo, ma ci vogliono 10 minuti, dopo 10 minuti attacchiamo il rosmetro e facciamo la potenza minima. Capo, già c'ho tutto quanto qua io, non ti preoccupare, tanto non devi portare niente. Va bene com'è, però parte da 6 watt, parte, capito? Da 6 watt parte. Io lo volevo ancora abbassare. Sì, lo abbassiamo. È che sono con un cane, se no è un yuntu, non posso venire in chili. Se no è un yuntu va. Ma domani sera c'ho la tanto domani mattina, domani devo accompagnare la moglie che poi dobbiamo trattenerci a Sassari domani dopo che lei finisce. E quindi vengo domani pomeriggio tranquillo, mi avvisi quando sei a posto e vengo e te lo faccio un attimino. Capo, io tutte le ore sono a posto. Però se è da fare lascia stare, può fare anche un altro giorno, intanto non lo sto usando. No, devo fare domani no. Ci metto 10 minuti, lo faccio e me ne vado, no, devo stare, ore maravigli. Così lo vedi e te lo fai, e quando lo vedi te lo fai tu anche. E un attimo. Io questo qua ce l'ho con un watt e mezzo di potenza minima e 10 watt di potenza massima. Se voglio questo qua lo prendo, lo sollevo anche fino a 18, questo qua sale anche 18 watt, però l'ho lasciato a 10 watt massimo perché intanto non mi dà futti nuda, io non lo tiro mai, non mi interessa, tanto esco sempre. Adesso sto uscendo con un watt e mezzo, un watt e mezzo sto uscendo. Perché è tutta la minima per portare l'amplificatore. Non mi interessa dire la radio di estimate, tata bui, haji, vade, sono radio bici, tanti i problemi, no, 1,5 watt, 2 watt. E quando io attacco sempre l'amplificatore, il BV131, e lui tira 50 watt, basta, finito. Così non scalda, così non sfrutto né il BV131 né neanche la radio, compreso. Aumentando la cosa giusta ti dà anche 100 watt e ti dà. Lo so, ma alla fine non è che lo uso per farmi le quattro chiacchiere e perché mi piace usarlo, capito? Però la dici con 50 watt, poi viene a fare i buchi. Sì, questo sì, è come adesso che io sto usando la 680 e c'ho 50, quasi 60 watt sono, però eccolo qua, 50 watt, e se ne va in FM, se ne va direttamente a 50. Sì, quanto ti sta arrivando dei segnali lì? Prova 9,50. E nuda, è 1,5 watt, ma secondo te? Poi, vedere se lo smitter è preciso. Nei campo dello smitter già preciso, non è che sì, ma fai che non sia 9,50, sono 9,40, 9,30, però sempre 1,5 watt, fai che sia anche 9, ma sempre 1,5 watt sto utilizzando. Sì, 9,50 picchi positivi anche. Picchi positivi perché la radio non sta lavorando, cioè la radio è tutto potenza di emissione radio, non di segnale, non è che vado a vedere, guardami. Adesso metto a scaldare l'amplificatore. Guarda. Metto a scaldare l'amplificatore e attenuandomi ti faccio anche i picchi positivi. Ma con questa potenza qua prendo e vado a fare... vado a... dai, 45, 50 watt. Lui ne segna 80, 85 nello schermino suo dell'amplificatore, ma strumenti effettivi sono a 45 watt. Così con un watt e mezzo, se lo porta a 5 watt sale a 80, proprio effettivi lui l'amplificatore, 80 watt là, con 5 watt di portante, con 5 watt di portante in FM. Poi in AM chitarra è diventata pure pericolosa, a chi con 2 watt di portante bianca ne dà anche 20, 18, 20, cioè assurda, 18, 20 watt modulati in AM, in banda laterale sono 40, e vabbè, quando la ripristini, quando gli metti i componenti nuovi, pian piano che ce l'hai, no? Una di piglia ti fai l'ordine e ti compri, cosa ne so, i diodi, ti cambi dei diodi, e lì poi ti fai delle regolazioni, delle cose, va a funzionare bene. Ma poi già raggio un po' vedo, ce l'ha passata pure lui, diciamo con le bobine variabili, e noi me da con 2 watt di portante sale a 20, da picchi di 20 watt. E quindi andare. Sì. Sì, a proposito ti devo dire una cosa, però te lo devo dire per telefono. Chiamami. Non c'è nessuno. Franco. Ora, prova, ora. E beh, Fra, come? Bene. Cos'è? Ma vai. E cosa era, Fra? Cioè? Sì, no, va bene, Fra, va bene. Io sono come Azinendi, sono sempre come Azinendi, ma... via. Va bene, già ne parliamo per telefono. Quello spinotto è un disastro. Adesso l'hai provato col tester? Oh, io. Ma lui, è quello vecchio, l'hai provato col tester? Adesso è tutto, adesso non conduce, adesso è isolato così. No, quello che hai piazzato è isolato, è a posto. Andava. Oh, yeah. Un casino. A voi quelle piccolezze, guarda cosa combinano. Deia. Aspetta, ma che microfono stai usando, Fra? E di lì che microfono puoi mettergli, Fra, al Lincoln? Dizzimi la voce meglio. Sì, 100.000 volte meglio, Fra. Lasciagli questo che va bene. Via. Puoi abbassare anche un po' l'amplificazione. Eccolo qua, fatto. Lassalo così che appoggio. Buona. Ottima. Aspetta che stacco una cosa un attimino, ho già attaccato roba a cucinare, sì. Mi ho messo a cucinare qualcosa. E va, entro. E mi compongo. Ha già detto che ci buccia a cucinare, che cosa va, entro e mi porto una doccia. Adesso entro e mi faccio una doccia. E niente. No, ma va bene. Quel... dai, il Lincoln va bene. Ottimo. Cosa, Fra? Sì. Ma qua va bene. Alla grande. Vedo già combina un PL, no? Hai visto? E chissà quante voce ti l'ha fatto. Però Fra. Quanto ne siamo accorto perché magari non ci facevi caso, però, secondo me non è la prima volta. Che l'ha fatto, perché ho fatto quel difetto mettendo quel cavetto, oppure non lo so. Comunque non è da Uggia. Ma allora il PL, a forza di entrare e uscire, ha fatto quella roba lì. Ha fatto quel difetto e purtroppo non vi beveva nuda. Quando usi a baita, proprio nuda, che è proprio l'ultima cosa che andi a pinzare. La prima cosa è il cavetto, poi visto strumento e cose, però poi alla fine va a misurare del PL. Vabbè. E il Lincoln cosa assorbe? 6 ampere, 7 ampere? Lui viene per i buchi. Sì. Come mi ascolti con Lincoln? Hai la sua autoparlante originale o quello esterno? Sì. E perché quello esterno suo e quello interno suo è un po' gareduci. È un pochino così, quello interno suo. Però, se l'hai messo quello esterno, io addirittura al mio Lincoln l'ho preso e gli ho proprio eliminato quello interno suo, gli ho tolto, gli ho messo un cavo fuori e lo uso solo con l'autoparlante esterno, lui non ne ha interno. Ogni tanto vogliono fatti fra, ogni tanto vogliono presi, vogliono aperti anche col, te l'ho detto cosa, ti ho mandato la foto di cosa devi prendere, gli metti quel prodotto e glielo fai asciugare, o lo soffi anche con la bocca e vedrai che vanno sempre bene. Sì. No, vabbè, col Galaxy già c'è tutto a portata di mano, già è tutto, in chiavi. E va bene. Già ci sentiamo per messaggi poi. Ma l'amplificatore lo sto usando, fra? Se non riesci a attenuarti. Non riesco a attenuarti. Ho l'RF A3. Se entra anche tu non lo intendo. Sì. L'RF gain ce l'ho a 3. Se entra qualcuno non lo sento, ma siccome te quella radio, no, già, il Lincoln è bello in FM perché spinge, è una schiccia. Questo che io lo stesso spinge in FM è un dannato, è meglio di, anche meglio delle 4.40 in FM. Se l'intesto del MC60 non trovi differenza tra l'HF e il Lincoln. E con questo col Tanner esce bene, la radio è forte e bella. Con l'MP4 io mi ricordo che era un po' più presente nelle basse frequenze, però così è forte, là sarà così che è forte, beh dai, non viene, e se ti dicono che è troppo voce la sapigli, io ti copio perfettamente. No, è meglio il Tanner, sì, io a voglia. Metti il Tanner, metti. E piano piano. Beh, se lo vuoi fare domani sera fammi sapere che mi voglio nel cappadda. Sentiamo per telefono. Yes. Tranquilli. Io entro a farmi una doccia. Che stanno per arrivare le mie due, dai, le signore, quindi mi porto una doccia e poi continuo a preparare. Sentiamo dopo se entri, magari entra anche Danilo, entra Tino Zevato Andidu, Gianni Romattesi, e va bene. Pausa di riflessione. E può darsi Burueo, però io ho quella cosa che aspetto 2 o 3 ore prima di coricarmi fra, e quindi e cosa vai? Sono accese le radio, sono accese, io già ce l'ho presto, ma comunque se vuoi entrare o se no ci sentiamo domani. Dalla buisa entrare anche tu, mi porto una giacciarata, se non piglio nel sacro un magneto termico dai noghi e anche io me ne vado a fare la mia pennichella. Ho portato l'RF A2 per attenuarti, l'RF A2. Se l'RF A2 ho portato, ti mando la foto, ti mostro un video, l'RF Gain A2 ho portato. Adesso sei 9, fondo scala, con l'RF A2 è fondo scala. A buffonendisi, è la frequenza modulata, Più forte esci in radio e più segnali vai. Purtroppo è così. più forte esci di radio, qua la potenza conta, sì, perché vai subito a fondo scala, però quello che conta è la radio, qua se hai la radio forte entri ed è un disastro, non riesci a attenuare. A 2, ho l'RFG in A2, proprio detto, se lo porta 1 adesso ti perdo, però A2 ti copio S9. Così sì, A2 te ne vai a fondo scala. Così se A2 te ne vai a fondo scala. Quella radio in banda da 30 watt, se tu quella radio provi, la provi in banda da 30 watt modulati. 20, 27 e 30 watt modulati da. Sì. Al massimo 3 watt. No, al massimo quella radio ti deve dare 12 watt. No, in FM 12 watt quella radio ti dà al massimo. Fra. Chissà radio devi da 12 watt in FM. Al massimo, con l'RF Power deve dare 12 watt. E poi ti dà 30 watt di modulazione, 27 e 30 watt di modulazione. Guarda, metti con l'indicatore modalità SVR, guarda se c'hai SVR. Audurai, con l'indicatore vai in SVR, c'è RF gain, modulazione e SVR. Io con la radio te l'ho portata in FM, te l'ho abbassata di watt, te l'ho abbassata a 12 watt, non a 20, perché in genere il Lincoln esce 20 watt in FM, 12 watt in AM, 20 watt in banda laterale. Adesso in 20 watt da 30 watt, 27 e 30 watt in banda laterale, 12 in AM e 12 in FM. Nell'indicatore ti dà qua lo sto facendo insieme a te, ti dà RF, modulazione, poi ti dà un vuoto e poi ti dà SVR. Ti dà l'SVR al massimo, ma il è quello a fianco al cambio di banda, come c'è SVR cal, come ce l'hai? Mettilo a metà. Sì, l'SVR cal, mettilo a metà e guarda quanto ti dà. L'SVR cal, mettilo a metà, guarda quanto ti dà. E guarda che c'è stazionario, mi parte bruchissa, guarda che c'è stazionario. Ah, non lo so quello fra, non lo so quello fra. Guarda che, ma ce l'ha attaccato allo strumento anche quello. E i watt quanto sono allo strumento? È impossibile, quella radio che vedrai è 12 watt, quella radio io te l'ho portata a 12 watt, perché se la usi, se la usavi con l'amplificatore ti dimenticavi, anche se la manetta ce la facevi a pilotarla. Fra, guarda che tu di lì hai qualcosa, ma c'è scritto, allora nel link c'è scritto SVR, così è, c'hai la cosa in SVR, quando va in trasmissione te la porta al massimo, si illuminano tutti i LED, così è. Esatto, invece adesso si illuminano tutti, così è. Non andare in trasmissione, fra. Non andare in trasmissione perché accendi il PRM un attimino. E beh, fra, stazionari hai. Hai visto? Hai visto? Lo strumento, dai. Così si rammari. Riprendo subito. 12 ora 12 quasi 13 va bene, hai? No, mi sta dando anche i watt giusti. Quanti watt ti sta dando? Allora con 10, con la scala da 10 mi passa al 10 watt, 12, forse arriva a 13, e con la scala da 100 sono quasi a 13. Sì, te l'ho detto, 12 watt in AM, 12 watt in FM e 30 in banda laterale. Però adesso non lo portare in banda laterale perché i finali sono caldi, lascialo riposare un pochino, perché ha avuto quella roba lì, Se no succede la stessa cosa dell'altra. Lascialo raffreddare un po'. A questo non posso andare in banda laterale. È vero, scusa, non va più. In Lima Sierra Bravo però puoi andare, sì. In Lima Sierra Bravo sì, in Lima Sierra Bravo puoi andare. Però lascialo un po', portalo a un watt e mezzo, e usalo con un watt e mezzo, momentaneamente. Sì, così lo sto usando, così. E lascialo così, momentaneamente, lascialo riposare e poi così, perché se no è un disastro, se no di chi su bastardo, a me devo sagata combinato. Yes, sentiamo dopo. Io va bene, io adesso ce l'ho accesa le radio. Ciao fra, dopo, buona cena. Yeah, a dopo, ciao. E beh, fra, adesso lo ricattura. È uguale, ti dà sempre SVR0, i watt uguali. Qua sei sempre attenuato e sei sempre, dai, attenuato a 2 e sei sempre fondo scala. Va bene, a dopo.